l'operativo stesso è già un movimento in sé, no? Ci porta più avanti, un po' più avanti, no? Come un'onda. Non so se voi conoscete la teoria della centesima lesbica, avete mai sentito? L'ho portata, è una teoria che ho letto diverso tempo fa, è stata pubblicata in una rivista femminista lesbica che si chiama Trivia. E, allora, questa teoria, chiama teoria, quindi insomma prendetela come tutte le teorie, no? Niente ci chiede di poter formulare delle ipotesi, delle teorie, cioè, e poi di sperimentarle. Allora parte da un fenomeno che l'autrice di questa teoria si chiama Tremor, ha trovato molto ispirante. È un fenomeno che è stato osservato da alcuni scienziati che facevano osservazione delle scimmie sull'isola di Koshima negli anni 50. Allora, questi scienziati, molto, abbastanza saticamente, praticamente, hanno portato su quest'isola un sacco di patate, tutte sporche di sabbia, per introdurre l'alimentazione delle scimmie. E queste scimmie, che si chiamano macaca offuscata, sono state oggetto di questo esperimento, prima non riuscivano a mangiarle, no? Perché erano sempre delle sporche di sabbia, insomma abbastanza disgustose queste patate. Poi un giorno una scimmia di 18 mesi che gli scienziati hanno chiamato Imo, questa donna che ha scritto questo articolo si chiede chissà come le scimmie chiamavano gli scienziati. Allora ha pensato che è venuto di lavare questa patata prima di mangiarla in un corso d'acqua, no? Un torrente. Ha visto che poi era commestibile, era molto buona, e ha insegnato questo trucco a sua madre e le compagne di giochi sessuali della madre, perché queste scimmie sono scimmie di tipo di quelle come il bonobo, che hanno, come moltissime scimmie, delle pratiche sessuali, non soltanto eterosessuali, pure gente. Le compagne di gioco della madre l'hanno insegnato alle loro madri e quindi è cominciato a essere diciamo trasmesso fra l'insegnamento di questo trucco fra scimmie e femmine. Per un po', quindi, praticamente solo le giovani scimmie e le scimmie adulte, le madri adulte, hanno saputo come fare questa cosa. E poi a un certo punto un certo numero di scimmie avevano imparato a lavare queste patate prima di mangiarle, no? E allora questo è il Tremor, dice, ecco, supponiamo che sono 99, il numero esatto non si conosce, però insomma 99. E la mattina dopo che ha imparato la 99esima, la centesima scimmia impara anche lei. Ecco, in quel momento succede che tutte, prima che venisse la sera, praticamente tutte le scimmie della tribù sapevano come lavare le patate nell'acqua prima di mangiarle. E quindi questa energia che aveva aggiunto la centesima scimmia in qualche modo aveva creato un salto, praticamente, che era diventato poi una conoscenza collettiva. Quindi il fenomeno della centesima scimmia implica che quando un certo numero critico raggiunge una coscienza di individui, questa nuova consapevolezza, questa nuova coscienza può essere comunicata da mente a mente, non c'è più bisogno di insegnarla, si sa praticamente. E questo c'è un salto in una nuova coscienza, in un campo di energia che viene rafforzato in modo che questa coscienza raggiunge tutte. E lei appunto sulla base di questa informazione ha avuto questa idea di proporre questa teoria che lei chiama della centesima lesbica, no? E dice le donne possono, anche lei ha la partenogenesi, le donne però possono riprodursi partenogenicamente e lo fanno sia per generazione spontanea che per pensiero desiderante, di solito si suppone che le donne sono gente e che la gente ha dei bambini attraverso un'unione sessuale di sperma di uovo, no? E così, pensare in un altro modo, viene considerato così razionale o almeno troppo futurista praticamente. E dice però se noi ci pensiamo un attimo, che cosa succede se una lesbica giapponese che si chiama Imo ha il problema di voler fare un bambino? Che sfidando i confini culturali della civilizzazione, questa Imo decide di andare al torrente e là lei scopre che grazie a una particolare corrente di vento, a una certa temperatura dell'acqua e al modo in cui si allunga sotto il sole e si carezza la pancia, diventa incinta. E Imo insegna il trucco a sua madre e alle sue amiche. E poi un giorno una centesima lesbica lo sa e diventa una cosa di tutte. Però lei dice, alla base di questa teoria c'è prima di tutto una donna che deve avere il desiderio di credere in qualche cosa al di là di ogni evidenza cosiddetta empirica e che ignora proprio il dettame di pensarla in questo modo, oppure che non è possibile. E quindi insomma lei dice in questo modo la sua teoria è che si può arrivare al salto di coscienza della centesima lesbica. Altre informazioni, altro materiale o il contatto con Marianne Beck stessa per esempio, o se volete, se vi lasciate un indirizzo qui, vi mando un po' di fotocopie e altre cose, eccetera, se Maria Bex, possiamo... Yeah. Allora, vi è piaciuta? Eccoci qua. Vi è piaciuta, non vi è piaciuta? Fatecelo sapere allo 06 49 17 50 in diretta. È piaciuta. O con SMS al 338 41 46 682. E adesso leggiamo stralci dal capitolo Il fascino discreto dell'ovvietà del libro Detto e non di Valeria Santini. Cominciamo. Preambolo. Breviario delle frasi tipiche che, pur riconosciute tali, non è possibile alle lesbiche evitare di pronunciare, divise per sezioni in momenti fatidici e accompagnate da piccolo commentario. Ora noi estrapoleremo delle perle dalle quattro sezioni che sono seduzione, rapporto, sessualità, fedeltà o infedeltà, abbandono. Cominciamo con la prima perla, seduzione. Tu di che segno sei? È l'ascendente per le più scaltre, e la luna e il sole in che casa ce l'hai? Commento. Modalità d'approccio diffusissima, anche se orribilmente superflua. Difatti le risposte vengono a malapena ascoltate e comunque eliminate dalla memoria nel giro di 5 minuti. Come scontati i proseguimenti della serie. Ah, gemelli, ma guarda! Con fare allusivo che per quanto si cerchi di rendere evidente, l'altra non nota mai. Oppure, le bilance sono persone complicate, io le conosco fin troppo bene, della famosa serie, e chi se ne frega, eccetera. Si consiglia, se banali proprio si decide di essere, di informarsi piuttosto sull'ubicazione di abitazione e luogo di lavoro, informazioni queste che almeno potrebbero tornare utili in futuro. A me è piaciuta invece quest'altra, sempre tratta dalla seduzione, che è una frase che credo tutte abbiamo fatto l'errore enorme di dirla o di subirla, che è: mi sei piaciuta dalla prima volta che ti ho visto, o anche mi sei sempre interessata fra tu, cioè tu fra tutte, era proprio te che volevo. E il commento di Valeria è appunto: bugiole lusinghiere dalle gambe cortissime, basterà che l'altra infatti vi chieda dove e quando vi siete incontrate, conosciute, per non parlare della tragica eventualità di domande precise tipo con chi era o che vestito indossava, o nel secondo caso vi ricordi che prima di lei avete tentato di imbroccare una sua amica per smascherare l'inconsistenza delle vostre affermazioni. Altra perla da seduzione. Ti piace la cucina indiana, araba, messicana, giapponese, eccetera? Commento. Effetto oramai talmente inflazionato che è preferibile chiedere: ti piace la fettina ai ferri? Io non sono una che va a letto con chiunque le capiti, ho così tanto per fare, tutt'altro. Io, per arrivare a farlo, ho bisogno di sentire che c'è qualcosa, devo avere un coinvolgimento. Il commento. Intanto, se fosse vero, non avresti alcun bisogno di specificarlo, niente di peggio che mettere le mani avanti. E poi, dato che secondo voi tutto questo coinvolgimento si sarebbe sviluppato nello spazio di una serata, al massimo due, vi pare davvero più conveniente spacciarvi per una dall'innamoramento istantaneo? Caratteristica che nell'ipotesi di un futuro rapporto non è propriamente sinonimo di affidabilità, piuttosto che ammettere di non avere poi tanti problemi a fare del sesso? E su questo mandiamo un bel brano. Oh, queste perle di saggezza ci sono venute in mente, tra l'altro, a Claudia, che è stata lei a pensare di portarle, sono carinissime, molto ironiche, proprio perché si sta avvicinando la festa di San Valentino, che in qualche modo, diciamo, no? Ci riporta queste frasi che purtroppo diciamo. Chissà se Claudia l'ha mai dette queste cose così scontate. C'è la privacy, Anna. C'è la privacy. E allora via col brano, va. Oh, e visto che vi dobbiamo dare un grandissimo appuntamento che stiamo preparando proprio per San Valentino, Beh, se volete cominciare a scriverci le vostre frasi d'amore, quelle che dedicherete, vi volete cominciare a esercitarvi, quale migliore occasione della radio? E possiamo leggere le vostre dediche, il numero è 338, ricordiamolo, 4146682, oppure qui in trasmissione. Io cambio brano perché quello era un po' troppo agitato per me. Noi continuiamo a leggere e speriamo che vi piacciono queste perle di Valeria. Allora, rapporto, stai bene con me? Domanda convenzionale alla quale l'altra deve rispondere: sì, benissimo. Paragonabile come rilevanza all'espressione di saluto inglese how do you do? So che è un sogno, ma mi piace pensare che questa storia non finirà mai. Appunto, il commento è un sogno. Lasciate un po' perdere e pensate piuttosto al sugo per la pasta che si sta attaccando alla teglia. Io voglio farti stare bene, perciò se c'è qualcosa di me che non ti piace, qualcosa che non va, dimmelo, dimmelo sempre. Affermazione che pare presupporre una sconfinata disponibilità al cambiamento in funzione dell'altrui felicità, ma in che realtà viene proferita con l'intensa speranza che la partner al massimo abbia a che ridire su un paio di calzini. E già questo un po' vi fastidisce. Oltre a ciò, beh, voi mica potete negare la vostra natura trasformandovi per qualcuno. E poi, insomma, ma perché non cambia un po' lei piuttosto che si crede tanto perfetta? Tu sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Il commento è: oltre alla frittata, come una cassata, meglio della pomata? Se l'affanno del proclamare l'entusiasmo e la gioia stupefatta provocati dall'altrui avvento, nonché l'unicità di questo stato di beatitudine, non vi concedono tregua, parlate, ma non sperate di essere prese sul serio, che a tutto c'è un limite. Ti piace fare l'amore con me? Sì, tantissimo. Ma guarda caso, ha risposto così. Ma guarda caso, rispondono tutte così. Ma guarda caso, avete sempre risposto così anche voi. Tutti questi casi vi fanno mica venire in mente qualche sospetto? Io con te faccio l'amore, oppure sono me stessa, oppure sono sincera, ci sono davvero, sono fedele, sono diversa e quant'altro sulla scia del con te è la prima volta che... Il commento è: la meraviglia e lo stupore dipinti sul vostro volto nel mentre pronunciate le suddette frasi non dipendono dall'aver scoperto un cambiamento in voi stesse, ma dal sentire la vostra voce e pensare: ma che sto dicendo? Che il cielo me la mandi buona. Tuttavia questo la partner non può sospettarlo e se è dotata di una buona dose di credibilità, la speranza che siate meno peggio di quel che dicono, si sa, l'amore è cieco, vi prenderà sul serio. Che dici, mandiamo un altro brano a questo punto? Sì, un altro brano. Mm-hmm. grazie, il primo trillino, grazie, che carino. Il secondo, Claudia, hai visto? Ci sono. Allora, io vi leggo un messaggino molto carino che ci è arrivato da Caterina, che io abbraccio e bacio molto volentieri, che commenta: ma allora, quando dico che sono dei gemelli, in realtà non ottengo un effetto dirompente come ho sempre creduto? Caterina, prima i gemelli a me poi mi erano pure un po'... Adesso non so se sai che anche io ci sono cascata una gemelli, per me è diventato improvvisamente il più bel segno dello zodiaco. Caterina, devi specificare l'ascendente e la casa, perché se no non è completo. Allora, interrompiamo momentaneamente le perle di Valeria Santini per dare alcuni appuntamenti delle prossime settimane. A Roma, martedì 10 febbraio, ore 17:30, libreria Bibli, via dei Cienaroli, Trastevere, Sara Zanghi presenta il suo libro Nebris, edizioni Empiria, interverrà Margherita Giacobino. Questo libro racconta, ci parla del territorio dei Nebrodi, monti della Sicilia orientale, dove si svolge questo singolare romanzo di formazione nel corso del trentennio 1930-1960. Oh, però l'appuntamento che ci sta più a cuore, forse, o diciamo prima gli altri, ma no, cominciamo a parlare, va. È il nostro ritorno, il nostro ritorno. A gennaio non abbiamo fatto iniziative proprio per preparare al massimo questa, che per noi è molto importante. Venerdì 13 febbraio, serata straordinaria a Les Bollywood, sempre in collaborazione col collegamento Lesbiche Italiane, e il titolo della serata è, qual è, Claudia, tu che sei una romanticona? Aspettando Santa Valentina. Aspettando Santa Valentina, rigorosamente solo donne, perché come sapete facciamo iniziative solo separatiste, essendo noi un gruppo separatista. E vi do il programma, che a partire dalle 20:30 cena di autofinanziamento, appunto, del centro femminista separatista. Cuciniamo proprio noi questa volta con le nostre mani, non più come la tombola, che avevamo preso delle cose per organizzare la tombola. Ritorniamo a cucinare e quindi faremo dei piatti proprio apposta per le nostre amiche che verranno a trovarci, no? Certo. Ecco, Claudia, tu ci vuoi dire che farai? Non ancora? Io purtroppo credo che lavorerò. Vabbè, quindi sarà una cosa, diciamo, prenderà da bere, Claudia, va? Siamo salve. Mi salvo in colore, lavoro. Poi alle 21:45 abbiamo la proiezione del film Fire, che è un film bellissimo, indiano, di Deepa Mehta, anche se qualcuno già l'avrà visto, vale la pena di rivederlo su grande schermo secondo noi, è canadese con ingresso a sottoscrizione, dopo vi dico anche qualcosa che riguarda il film. E poi alle 22 abbiamo I tarocchi dell'amore, letture di Giovanna Olivieri, sia per le coppie sia per chi invece è in cerca di amore o chi invece lo vuole dimenticare o proprio sta bene da sola e vuole sapere se continua per fortuna a stare da sola. E alle 00:00 abbiamo il brindisi all'amore lesbico. ricordatevi, venerdì 13 febbraio da noi in via San Francesco di Sales 1B al CFS. Naturalmente fra poco aggiornerò il sito, non vi dico di andare subito, comunque vi ricordo che il nostro sito è www.clrbp.it, l'email è contatti@clrbp.it. aiutateci con la vostra presenza e col vostro sorriso a conservare questo posto, il Centro Femminista Separatista, affinché viva, che è un posto fatto per noi donne, quindi dobbiamo fare di tutto e noi faremo di tutto per conservarlo. Ah, ho fatto una capa tanta, mo parla Claudia. Sì, volevo specificare che alla festa ovviamente possono partecipare anche le non fidanzate, soprattutto loro, e per loro abbiamo pensato di organizzare dei tavoli esclusivamente per single, di modo che, non si sa mai, visto San Valentino, si possono fare delle conoscenze istruttive. Infatti. Poi se venite invece solo a conoscere del CLR, ci fa piacere. Domandate di noi, vabbè che ci capite subito, che siamo al di là della staccionata a servire tavoli. Va bene, altro appuntamento questa volta a Bologna dall'associazione Fuori Campo Lesbian Group. È felice di invitarvi sabato 7 febbraio a Cibo, Parole, Musica, Arte. Ricominciano, questo è il loro comunicato, ricominciano le nostre cene, stessa formula ma con tante idee in più: musica dal vivo, mostre di arti visive, teatro, il tutto per legare l'arte della cucina con le altre arti. Sabato 7 la musica sarà curata dalla DJ Trippi con musica disco, revival, pop, elettronica, commerciale. Vi ricordiamo che per la cena si entra solo con prenotazione, i posti sono limitati. Per la festa si entra dalle ore 24 solo se si è in lista. Per informazioni e prenotazioni www.fuoricampo.net oppure email cene@fuoricampo.net. SMS 339 1408 010. Oh, e qui è arrivato un messaggino di sostegno per le frasi che abbiamo letto della Santini, che dice, secondo me sono proprio loro, sono le mie carissime Laura e Melania, che però mi danno una bruttissima notizia perché dice: non so se ce la facciamo a venire per il 13, voi dovete venire, sennò va male l'iniziativa, poi l'avete sulla coscienza il fallimento, eh? Allora, è proprio a voi che dedichiamo questa canzone, ma a tutte le innamorate. Questa canzone è scelta da Claudia, ovviamente. E introducila tu. Sì, siccome è dedicata a tutte le innamorate, quindi a tutte le nostre compagne, ma anche a tutte le lesbiche, perché ogni lesbica di fondo è innamorata. Esatto, noi siamo innamorate anche delle nostre compagne, io personalmente anche del mio gruppo, delle nostre carissime compagne, quindi all'amore lesbico e allo stare insieme fra lesbiche. Questa è meravigliosa creatura, ovviamente scelta da me, Gianna Nannini. Yeah. Allora, spero che vi sia piaciuta e così, tanto per informazione, visto che Gianna piace a parecchie lesbiche, sarà a Roma il 17 febbraio all'Auditorium. Sì, allora, eccomi qua, ci sono, eh. Allora, noi dobbiamo salutare perché siamo assolutamente, siamo entrate tardi, però, cioè non entrate, nel senso che le compagne ci hanno lasciato tardi il posto e alle 10 ricomincia liberamente. Noi vi dobbiamo salutare, mandiamo la sigla finale, però voi rimanete con noi, anche perché ci è arrivato dei messaggi stupendi e io volevo pure chiedere se era possibile copiarli, visto che dovrei fare pure io il bigliettino quest'anno. E ce n'è uno in particolare che è bellissimo, veramente voglio leggerlo. Rimanete con noi in diretta con Claudia e Annalisa. Ciao. Ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me here. Allora, io vi volevo leggere un messaggino, se lo ritrovo però. Vabbè, innanzitutto sempre tanti baci a Laura e Melania perché sono troppo, troppo carine, veramente, quindi speriamo assolutamente di vederle. E, ah, eccolo qua, l'ho trovato, eh. Allora, sentite quanto è bello. Ciao ragazze, grazie perché con voi i miei pensieri si trasformano in parole. Siete grandi. E fin qua ci fa dei complimenti bellissimi, no Claudia? Grazie, eh? Troppo buona. E poi però continua e dice: voglio dire al mio raggio di sole che attraverso il suo sorriso ho scoperto il senso dell'amore. Lei si firma la spagnola, io ho capito benissimo chi è una ragazza carinissima ed è molto fortunata chi è la sua compagna. Io comunque alla spagnola vorrei dire che io me la copio perché è proprio bella veramente. E allora, ci abbiamo altri appuntamenti, Claudio, vogliamo continuare a leggere qualcosina? Abbiamo forse da dire che c'è una rassegna di cinema qui a Roma, esattamente all'Associazione Culturale Articolo 3, Centro dei Diritti Sociali e Civili, in Viale Libia, via Dancalia 9, e vi do anche un'email che per informazioni potete scrivere a cioffarimauro@tin.it. È una rassegna di film e dibattiti a tematica omosessuale e transessuale. Vi do due appuntamenti, che è domenica 8 febbraio alle 18, proiezione del film Krampak di Cesc Gai, spagnolo, e alle 20.30 c'è un dibattito con Agedo, che è l'associazione che io amo di più, quella dei genitori, parenti ed amici di omosessuali, sperando che mi ama prima o poi si iscriva. E il 15 febbraio, sempre di domenica alle 18, avremo la proiezione del film Quasi Niente Prescherien, scusate la mia pronuncia imbarazzante francese, e alle 20.30 c'è il dibattito con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. C'è da dire che poi continuano con altri appuntamenti cinematografici che daremo nelle prossime settimane. Gli appuntamenti sono finiti qui, continuiamo con qualche altra perla di Valeria. Se nel frattempo ci volete mandare ancora dei messaggi, delle dediche, noi siamo qua ancora fino alle 10. Allora, un'altra perla: io ti aspetterò sempre. Ma figuriamoci, l'aspetterete per un po', poi vi parrà di aspettarla, poi troverete un'altra. No, è che la spagnola, scusami. Allora continuo io. No, aspetta, dice che il suo raggio di sole si chiama Viviane. Io in realtà non lo volevo dire, però vabbè, lo diciamo. Un saluto ormai a Viviana. Ok. E un saluto anche a Tania, che doveva essere qui in radio, invece purtroppo è ammalata. E anche Caterina ammalata, e tanti bacioni e auguri di guarigione. Oh, Allora, mandiamo un po' di musica e visto che siamo in, in romanticheria, io volevo dedicare a tutte voi questa canzone che amo, che è di Rene Grandi e si chiama Dolcissimo Amore. Lo so che non è all'altezza di Meravigliosa Creatura, però so anche che molte di noi lesbiche si vanno a pescare gli amori non nella propria città ma fuori. Questo è capitato anche a Claudia, per cui questa canzone mi ha tenuto compagnia per tanto tempo ed è bellissima perché parla proprio di un amore a distanza, che è un po', diciamo, io credo che l'80% delle lesbiche si amano a distanza, non so se per farlo durare di più o se è un caso. Amo questa città, mi manchi dolcissimo amore. La notte batte le ore, io ti cerco tra la gente di questa città. E non sento più il freddo e il caldo, e non vedo più il rosso e il giallo. Non distingo più tutte le cose, quelle giuste e quelle no. Sono troppi giorni che non so stare senza te. Ho capito che vi piace solo Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini, ma anche quello che ho scelto io era dolce, no? Per San Valentino. No. Qualche trillino. Su. Quando amarsi fa male, mio dolcissimo amore, io disegnerò il tuo viso, io posso per te. Batte nella notte le ore e voli sulle case a un passo da me. I minuti senza te come gocce cadono giù senza. Anima. E questo, visto che parla di un amore lontano, lo dedichiamo a Maria Paola. Vabbè, ho capito comunque che non vi piace. Mo mettiamo un'altra di Nina Simone, sperando che almeno questa vi piaccia. Dopodiché ce l'avete con me, eh? Questa è My Baby Just Care For Me di Nina Simone. Ah, allora non vi piace Irene Grandi? Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care, no. My baby just cares. Finita Claudia. Vedi, quando si sta bene il tempo vola. È vero, con te vola. Con tutti sti trillini, sti messaggini, mo vi dobbiamo lasciare, in effetti. Allora, io vi ricorderei, tanto così, per in modo che non ve lo dimenticate, prima di andare alla manifestazione Kiss to Pax, che saprete benissimo che c'è questa manifestazione in Piazza Farnese per baciarsi tutti quanti in piazza. Ricordatevi che potete baciare invece, diciamo, al centro femminista separatista, e fate una cosa anche più, no, corretta, se volete baciarvi. Altrimenti tutte le donne lesbiche, tutte le vostre amiche, tutte quante, possiamo stare insieme il 13 febbraio dalle 20:30 in poi, e aiutate, sostenete il nostro gruppo, il centro femminista separatista. Noi vi accogliamo con piatti preparati assolutamente con amore, sperando in buoni risultati, e poi c'è la proiezione del film Fire, e poi starete con noi tutta la sera se vi va. Va bene, vi auguro una buona serata, una buona settimana. Martedì saremo di nuovo qui, io, Claudia, e probabilmente recuperiamo anche Tania. E i primi minuti saranno in replica, ma poi il quarto d'ora, 20 minuti, saranno sempre in diretta. Quindi assolutamente martedì prossimo alle 21. Preparate le dediche, perché San Valentino è lì, è proprio imminente. Quindi diciamo, la spagnola è bellissima quella frase, quella sicuro io la sfrutto per qualche bigliettino mio, eh. Sì, comunque ribadisco che la serata è aperta anche alle single. A tutte le donne. Tutte le lesbiche. Infatti noi brindiamo all'amore lesbico, ma alle lesbiche soprattutto, alle nostre sostenitrici. Allora, un bacio e un abbraccio da me e Annalisa. Un bacio e un abbraccio da Claudia. E finiamo con un brano, assolutamente, visto che vi piace tanto Gianna Nannini. Qualcuno dice discutibile, Claudia sostiene che è un brano che fa fantasticare le donne. Decisamente a carattere lesbico. Va bene, vediamo che ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi. volevamo ritornare, ma siete bellissime tutti questi trillini, eh? Claudia, hai visto, hai ragione tu. Sì, grazie mille. Abbiamo avuto dei problemi con i messaggini, ma comunque la prossima volta li leggiamo. Sì, tutti, tutti. E li mettiamo nel sito. Grazie a tutte, anzi. Grazie a tutte e buona settimana. E buona America a questo punto. Tutte in America. Allora, prima che mettete in atto quello che propone Giannini, io vi volevo ricordare che adesso Imperdibile va in onda liberamente e una volta al mese, quindi oggi è il giorno fortunato, si parlerà delle donne nel reggae. Quindi rimanete assolutamente sintonizzate su Radio Onda Rossa. Questo è ancora il martedì femminista e lesbico autogestito, non andate via. E niente, ascoltiamo, finiamo di ascoltare questo brano, fra un po' partirà il Liberamente, assolutamente imperdibile.